Il Pinsimonio, 5 parole per condire il tuo linguaggio. Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata del Pinsimonio, la numero 14, nella quale andremo ad affrontare parole che possiamo usare in contesti in cui qualcuno ci ostacola o ci favorisce e che sono intransigente, indulgente, ostracismo, ostruzionismo e coadiuvare. Per cominciare, intransigente è chi o che non transige, che si mantiene cioè irremovibile nelle proprie idee senza ammettere che altri possano pensare o agire diversamente, o che non tollera trasgressioni, deviazioni da un programma fissato, da una linea di condotta stabilita o da una regola imposta, sia come carattere e comportamento abituale, sia in relazione a fatti o settori determinati, sia anche con un atteggiamento occasionale. Nella vita politica, intransigente è la corrente estremista di un partito che non ammette compromessi per quanto riguarda la difesa e l'attuazione del programma di partito. Per estensione è anche detto di ciò che dimostra intransigenza, come assumere una posizione intransigente. Il contrario di intransigente è indulgente, che è il participio presente di indulgere. Indulgente è detto di persona che per mitezza di carattere o per umana comprensione è naturalmente disposta a perdonare, scusare e compatire, o che in casi particolari punisce con minore severità di quanto potrebbe o dovrebbe, come un giudice indulgente. Per estensione è riferito anche agli atti, un sorriso o uno sguardo indulgente. In qualche caso nell'uso letterale essere indulgente significa lo stesso che indulgere, nel significato di accondiscendere o assecondare. E chi non è indulgente può essere ostracista, ossia che attua un comportamento di ostracismo. L'ostracismo ha un'origine antica che risale al V secolo a.C. e che era un tipo di sanzione vigente ad Atene consistente in un allontanamento della durata di 10 anni dal territorio della città che l'assemblea popolare poteva comminare nei confronti di cittadini la cui attività fosse ritenuta pericolosa per lo Stato, ma in pratica veniva utilizzato per lo più pretestuosamente per eliminare dalla scena politica personaggi pubblici invisi alla maggioranza. È così detto dal frammento di terracotta sul quale il nome del concittadino inviso era scritto da coloro che votavano nell'assemblea popolare. Da qui, in senso figurato, l'ostracismo è il comportamento con cui, nell'ambito di un gruppo sociale o politico omogeneo, le persone che esercitano il potere o che dispongono di particolare influenza escludono o emarginano, spesso facendo leva su forme di coazione sociale, un loro avversario o anche chiunque abbia violato le regole del gruppo stesso. In particolare, il termine viene usato in antropologia sociale per indicare l'esclusione da una comunità di quegli individui che si siano resi colpevoli di determinate infrazioni. Per estensione può trovarsi riferito anche a comportamenti, pratiche o ideologie. Dare l'ostracismo a qualcuno, come perseguitarlo, ostacolarlo o emarginarlo in tutti i modi. O dare l'ostracismo a qualcosa, come condannarla o metterla al bando. Simile a ostracismo è l'ostruzionismo, che è il derivato di ostruzione, che è in genere qualsiasi azione con cui si tende volutamente e sistematicamente a ostacolare una determinata attività. Con questo senso la parola è frequente anche nell'uso comune, fare dell'ostruzionismo. Con significati più specifici, ostruzionismo parlamentare, un sistema usato dalle minoranze parlamentari per impedire o ritardare le deliberazioni della maggioranza, o anche può essere una forma di lotta sindacale consistente nell'osservare in modo minuzioso e pedante i regolamenti, rendendo così difficoltosa o addirittura paralizzando l'attività produttiva di un'azienda. Nel linguaggio sportivo è ostruzionismo ogni manovra che miri, in maniera non consentita dal regolamento, a impedire l'azione dell'avversario nel momento in cui questa sta per avere successo. E poi c'è anche chi, invece di mettere i bastoni tra le ruote, coadiuva. Coadiuvare significa prestare la propria opera di collaborazione, coadiuvare qualcuno in una sua attività. Più genericamente significa aiutare o cooperare e riferito a cose concorrere a un determinato effetto. E così concludo questa 14ª puntata in cui ho coadiuvato l'infotainment di Radical Pop, nel quale vi auguro un buon proseguimento. La base di oggi è gentilmente offerta da Fulvio della Ragù Records, che si scrive con 2 O e che potete trovare su Facebook, Bandcamp e SoundCloud. Ascolta il Pinsimonio su Radio Città Fujiko dal lunedì al venerdì dopo la rassegna stampa di Radio Zanardi, oppure in podcast sulla pagina Facebook Il Pinsimonio Radiofonico.